Allora, dovremmo essere in contatto con una compagna di tuba, ci sei? Sì, ci sono, eccomi. Ciao. Oh, perfetto, ti chiami. Ci siamo. E allora, dunque, oggi inizia diverse iniziative intorno al fumetto, vero? Sì, sì, oggi tuba si fa promotrice su all'isola pedonale di una piccola iniziativa che, insomma, speriamo possa essere un'iniziativa, diciamo, abbastanza, che poi si diffonda, e abbastanza bella sul fumetto di donne, e per dare, diciamo, quello che abbiamo, si prova sempre a fare, un po' di spazio a quello che sanno fare le donne in termini artistici, culturali, letterari. E ci è venuta in mente che, insomma, l'idea di unire le illustratrici che spesso ospitiamo qui, e quindi alcune illustratrici, e tenerle da noi e poi spammarle in giro per tutta l'isola in altri 5 locali, e poi contemporaneamente fare una settimana di presentazione di fumetti di donne che tendenzialmente hanno sempre un po' poco spazio, ecco. E dunque c'è un programma un po' speciale, perché andate a vedere diversi tipi di fumetti con diversi argomenti. Sì, abbiamo buttato giù un programma secondo quello che ci interessava di più a noi, quindi partiamo oggi con alle 18:30 con il fumetto Io so Carmela di Alessia Di Giovanni e Monica Barengo, che Alessia è appena arrivata qui. È un fumetto su una vicenda triste e terribile di questa ragazza 13 anni che si è uccisa dopo uno stupro e mai creduta, e quindi partiamo con un'assemblea, quindi, sulla violenza, contro la violenza, e abbiamo invitato un po' di realtà territoriali e femministe, e poi invece alle 21 vengono MP5 Zero Calcare, che sempre insieme ad Alessia ci inoltreremo in che cosa vuol dire il fumetto politico, se esiste un fumetto politico, che cosa si fa prima, le illustrazioni, insomma, quindi in questo argomento qui. E poi invece domani abbiamo scelto come tematica il biographic novel, perché ci è arrivato questo bellissimo storia a fumetti fatta da Francesca Riccioni e Tuono Pettinato sulla vita di Alan Turing, un genio della matematica e dell'informatica, che, come dire, per primo elaborò un sistema di informatico che ha poi avuto a che vedere con l'intelligenza artificiale, i computer e compagnia bella. E lui, un uomo che però fu assolutamente marginato e si uccise infine perché omosessuale. E poi alle 21 abbiamo dato il titolo Lesbo Drama, perché abbiamo da noi una donna che fa fumetti su blog, che si chiama Ren, e Susanna Scrivo, che ha scritto già un libro sul fumetto LGBTQ, e proviamo a fare due chiacchiere su a che punto stiamo il fumetto lesbico, e su Alison Bechdel, che non può stare qui con noi, ma insomma sta nei nostri pensieri. Sì. E poi invece giovedì si presenta Cattive Ragazze, che è scritta da Assia Pedicelli e Sergio Riccardi, in cui questa bellissima, diciamo, fumetto in cui ci sono illustrate 16 storie di donne audaci e creative, e quindi abbiamo da Angela Davis a Kolontai, passando per la prima donna che fece, prima e unica donna che fece il Giro d'Italia, insomma, e molte altre ancora. E poi la sera facciamo un incontro con Laura Scarpa, che farà un live painting insieme alle suggestioni musicali di Ramide, tutto live, e quindi siamo molto, insomma, contenti anche di fare questo esperimento. E poi in gran chiusura venerdì presentiamo, sempre sul filone biographic novel, presentiamo questo fumetto che si chiama Ci sono notti che non accadono mai, che è un canto a colori per Alda Merini, che è appunto un canto a colori scritto da Silvia Rocchi, che ha praticamente illustrato, mettendo insieme con delle tavole bellissime, la poesia di Alda Merini. E poi chiudiamo alle 21:30 con una mini performance live performance visuale curata da Erbaghetta, che si chiamerà Antirazzismo e Supereroine LGBT nel fumetto mainstream, e poi facciamo una festa alla fine, una festa in maschera verso il Pride, in maschera eroine, e con la DJ Big Mama. Ecco, questo è il programmone. È un bel programma, che lavoro ne avete fatto. Speriamo, brave, che arriveremo alla fine, insomma. No, ma certo, venerdì ci si arriva, venerdì. Sì, ci si arriva, e insomma, noi siamo molto molto contente oggi, veramente, di cominciare. E dunque, per riassumere, cioè, tutti i giorni una cosa alle 18, una cosa alle 21. Esattamente. E in più, tutti i giorni, per almeno altre 2 settimane, penso, ci sono le illustratrici, che di cui noi abbiamo un piccolo esempio dentro Tuba. Abbiamo 5 illustratrici sparse sull'isola pedonale. Ah, ok. Sperando di, insomma, contagiare un po', ecco. Sicuramente succederà. E dunque, io vorrei richiederti, dove si trova il programma, per chi non l'ha ascoltato bene? Sì. E allora, il programma lo trovate sia sul sito, quindi www.cybertuba.org, che su Facebook cercando Tuba Bazar. Okay. Guarda, io ti ringrazio, spero che tutte le ascoltatori e ascoltatrici andranno uno di questi giorni, a partire di oggi, dunque da oggi fino a venerdì, 2 volte, una volta alle 18 e una volta alle 21, un'iniziativa e un bel dibattito, discussione importante intorno ai fumetti. Grazie a voi di averci chiamato. Grazie a te. Ciao. Ciao, buona giornata e buon lavoro. Anche ciao a te, a tutti. Ciao.